Pubblicato sulla rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambugnu, una nuova poesia del poeta Francesco Buttini, dal titolo Interminabili attese. Interminabili attese ed infiniti silenzi fanno da eco ai miei giorni, ma da qualche parte so, o almeno spero, che torneranno rumori di sacre danze per un Dio che mi auguro mi accolga ancora e di cui ora ho una paurosa nostalgia.